Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. Vite parallele di uomini illustri. Alexander Solzhenitsyn e Eduard Limonov hanno lasciato entrambi il paese nella primavera del 1974. Ma la partenza del primo ha suscitato nel mondo molto più clamore. Dopo la caduta di Khrushchev, fra il potere e il profeta di Ryazan era ormai guerra aperta. Per una contraddizione tipicamente sovietica, Solzhenitsyn era considerato lo scrittore più importante del suo tempo, ma di fatto era vietato pubblicarlo. Poche storie sono belle come quella di quest'uomo solo, medievale, contadino, scampato al cancro e al gulag, sorretto dalla certezza che prima di morire riuscirà ad assistere al trionfo della verità, perché quelli che mentono hanno paura, e lui no. Quest'uomo che, quando i suoi colleghi ne votano l'espulsione dalla loro unione, perché, tra l'altro, è assente dalle sue opere il tema dell'amicizia fra gli scrittori, è capace di rispondere pacatamente: «La letteratura ufficiale, le riviste, i romanzi pubblicati, io li considero semplicemente inesistenti. Certo, anche da quel terreno possono nascere talenti, ce ne sono, ma sono condannati a morire, perché quel terreno non è fertile». Poiché lì ci si adatta a non dire la verità capitale, quella che balza agli occhi senza bisogno della letteratura. La verità capitale è naturalmente il gulag, e anche che il gulag è esistito prima di Stalin ed esiste dopo di lui, che il gulag non è una malattia del sistema sovietico, ma la sua essenza e addirittura il suo scopo. Solzhenitsyn ha passato 10 anni a raccogliere in segreto le testimonianze di 227 ex esec, occultando i manoscritti riempiti della sua minuta grafia e ricavandone microfilm da far passare clandestinamente in Occidente, a erigere quel monumento, Arcipelago Gulag, che viene pubblicato in Francia e negli Stati Uniti all'inizio del 1974 e di cui Radio Liberté inizia a trasmettere la lettura. L'uomo che ha appena assunto la guida del KGB, Yuri Andropov, capisce che quel libro è per il regime una bomba più pericolosa di tutto l'arsenale nucleare americano e decide di convocare d'urgenza il Politburo. Il verbale di questa riunione di crisi sarà reso pubblico nel 1992, quando Boris Yeltsin desecreterà gli archivi. Si tratta di una vera e propria opera teatrale che meriterebbe di essere messa in scena. Brezhnev, che già non è più quello di una volta, non si rende ben conto del pericolo. È favorevole, naturalmente, a denunciare come propaganda borghese quell'attacco contro tutto ciò che abbiamo di più sacro, ma in fin dei conti sarebbe incline a lasciar correre. La cosa si sistemerà da sola, come è accaduto con le proteste contro l'invasione della Cecoslovacchia. Pat Gorny, il presidente del Presidium, non condivide il suo fatalismo. Schiuma di rabbia. E si rammarica perché il sistema si è ammollito al punto da non prendere neanche in considerazione la soluzione di buonsenso, una pallottola alla nuca. Non si fanno mica problemi in Cile. D'accordo, sotto Stalin forse si è esagerato un po', ma ora si esagera in senso opposto. Più diplomatico, Kosygin propone il confino oltre il circolo polare artico. Durante queste tirate sembra di sentire sospirare Andropov, sembra di vederlo alzare gli occhi al cielo. Alla fine, il capo del KGB prende la parola. «Tutto ciò è assai ben detto, miei cari amici, ma adesso è troppo tardi. Il colpo alla nuca bisognava spararglielo 10 anni fa. Ora il mondo intero ci guarda e a Solzhenitsyn non possiamo torcere un capello. No, l'unica carta che ci resta da giocare è l'espulsione». Tutto è grandioso nel destino di Solzhenitsyn, il quale 2 giorni dopo questa riunione viene caricato di peso su un aereo diretto a Francoforte, dove Willy Brandt lo accoglie come un capo di Stato. Il che dimostra però, ed era questo il cruccio fondato dell'irruente Pat Gorny, che il sistema sovietico aveva perso il piacere e la forza di fare paura. Mostrava i denti, ma senza più crederci davvero, e invece di perseguitare i ribelli, preferiva mandarli al diavolo. Al diavolo significava in Israele, destinazione per la quale, in quegli anni, si sono cominciati a rilasciare passaporti con grande prodigalità. Per beneficiarne bisognava in teoria essere ebrei, ma le autorità non andavano tanto per il sottile e tendevano a considerare una specie di ebreo ogni rompiscatole conclamato, il che permetteva di accogliere la candidatura di Limonov. Quando l'ho interrogato sulle circostanze della sua partenza, Limonov mi ha parlato di una convocazione alla Lubyanka, la sede moscovita del KGB, edificio quanto mai sinistro, in cui si entrava senza avere la certezza di uscirne. Il solo nome bastava a far impallidire chiunque, ma non lui. Limonov dice di esserci andato con le mani in tasca e quasi fischiettando. Suo padre lavorava in ditta e i cechisti non erano poi così cattivi come i dissidenti volevano far credere. Erano funzionari bonaccioni e sonnacchiosi e bastava una battuta azzeccata per farsi gli amici. Limonov racconta anche di aver conosciuto, tramite uno del suo giro che era all'università con lei, niente meno che la figlia di Andropov, una ragazza tra l'altro piuttosto carina, che lui ha fatto ridere un'intera serata, corteggiandola un po' e infine sfidandola. Sarebbe stata capace di convincere il paparino a dare un'occhiata al dossier del poeta Sabienka Limonov? Lei ha accettato la sfida con spavalderia e qualche giorno dopo, ma come sapere se è la verità o se lo stava prendendo in giro, è tornata con questo verdetto: elemento antisociale, fermamente antisovietico. Certo è che, al contrario di altri elementi antisociali e antisovietici come Brodsky o Solženicyn, che sono stati costretti a partire e avrebbero dato un braccio pur di non abbandonare la terra e la lingua natali, Edouard e Tania volevano emigrare. Edouard perché, secondo uno schema che abbiamo imparato a conoscere, era convinto di aver esaurito in quei 7 anni l'esperienza dell'underground moscovita, così come nei 7 anni precedenti aveva esaurito quella dei decadenti di Kharkov. Tania, perché aveva la testa imbottita di riviste straniere, star e indossatrici famose e pensava, perché non io? Qualche volta Tania portava Edouard da una signora molto anziana, che era la prozia di una sua amica e si chiamava Lily Brick. Una leggenda vivente, diceva la ragazza con rispetto, perché da giovane Lily Brick era stata la musa di Majakovskij. E in Francia sua sorella era diventata, con il nome di Elsa Triolet, quella di Aragon. Ma per Edouard rimaneva un mistero, come quelle due donnine tozze e brutte fossero riuscite a prendere all'amo uomini di tal calibro. Le visite a Lily Brick lo indisponevano. L'unica leggenda vivente che gli interessa è lui stesso. E non gli piacciono né il passato né gli appartamenti, così caratteristici, della vecchia intelligenza russa. Zeppi di libri e di quadri, di samovar, di tappeti e di medicine che la polvere ha incollato sui comò. Quello che gli ci vuole sono una sedia e un materasso, ed è già tanto, siamo agli Ozi di Capua, in campagna basta un buon cappotto. Ma Tania insisteva perché le piacevano le celebrità e l'ottuagenaria Lily la adulava spudoratamente, decantandone la bellezza più non posso, non appena l'Occidente l'avesse vista sarebbe caduto ai suoi piedi. Se i due giovani fossero andati a Parigi, sarebbero dovuti passare da Aragon e se fossero andati a New York dalla sua vecchia amica Tatiana, che era stata anche lei, nei tempi andati, amante di Majakovskij e ora era la regina della vita mondana di Manhattan. A ogni visita, Lily Brick mostrava a Tania un braccialetto d'argento bello e pesante che le aveva regalato Majakovskij. Lo faceva ruotare e scivolare sul suo vecchio polso rinsecchito, sorridendole. «Quando sarò morta lo porterai tu, mia cara. Te lo regalerò il giorno prima della tua partenza». Per noi che andiamo e veniamo prendendo aerei come quando ci pare, è difficile capire che per un cittadino sovietico la parola emigrare indicava un viaggio senza ritorno. È difficile capire queste parole, semplici come un colpo di scure, per sempre. Non sto parlando dei transfughi, di artisti come Nureyev e Baryshnikov, che approfittavano di una tournée all'estero per chiedere asilo politico. Quelli di cui in Occidente si diceva che avevano scelto la libertà e che sulla Pravda venivano bollati come traditori della patria. Parlo di quelli che emigravano legalmente. Per quanto difficile, negli anni 70 non era impossibile. Ma chi presentava domanda sapeva che, se fosse stata accolta, non sarebbe mai più potuto tornare in Unione Sovietica. Neanche di passaggio. neanche per una breve visita, neanche per un bacio alla madre morente. Era una scelta ardua. E infatti non erano molti quelli che decidevano di partire, cosa che probabilmente il potere si aspettava quando aveva aperto quella valvola di sfogo. Gli ultimi giorni erano strazianti. Ridere con un amico, sedersi sotto un tiglio, prendere la scala mobile fra gli sfarzosi lampadari della fermata del metrò Krapotkinskaya e uscire all'aria aperta, in mezzo alle bancarelle dei fiorai, nel profumo della primavera di Mosca. Tutti gesti ripetuti migliaia di volte senza badarci e che ora ci si accorgeva con una sorta di stupore di compiere per l'ultima volta. Ogni particella di quel mondo così familiare sarebbe divenuta presto e per sempre irraggiungibile, ricordo, pagina voltata che non si potrà rileggere mai più, motivo di incurabile nostalgia. Abbandonare quella vita, la vita conosciuta di sempre, per un'altra da cui si sperava molto, ma di cui non si sapeva quasi nulla, era come morire. E quelli che restavano, se non vi maledicevano, si sforzavano di mostrarsi gioiosi, ma lo erano allo stesso modo dei credenti che accompagnano i congiunti fin sulla soglia di un mondo migliore. Dovevano rallegrarsi perché laggiù i loro cari sarebbero stati più felici che qui, o piangere perché non li avrebbero rivisti mai più. Nel dubbio, si beveva. Alcuni di quei brindisi di addio si sono trasformati in zapoi così convulsi che gli aspiranti alla partenza ne riemergevano stravolti solo quando l'aereo era già decollato. Non ci sarebbe stata un'altra occasione. La porta si era rinchiusa per non aprirsi mai più. Non restava che bere un altro goccetto, senza sapere se lo si faceva per annegare una disperazione ormai irreparabile o, come ripetevano gli amici con grandi pacche sulle spalle, per ringraziare il cielo di averla scampata bella. Si sta meglio qui, no? Tutti insieme, a casa. Pur essendo assai poco sentimentale e guardando con grande fiducia al radioso futuro che gli attendeva entrambi in America, anche lui deve essersi sentito strappare il cuore dal petto. Immagino che abbia accompagnato Tania a salutare per l'ultima volta la sua famiglia, una famiglia di militari ma di grado molto più elevato di quella di Edward. So per certo a ogni modo che lei è andata in treno con Edward a Kharkov, dove ha conosciuto non soltanto Beniamin e Raissa, sbalorditi dall'audacia del figlio e sgomenti all'idea di perderlo, ma anche Anna, che informata dai vicini del ritorno lampo dell'ex compagno, si è presentata a casa dei Savienka, dove si è prodotta in una scena isterica degna della migliore tradizione dostoevskiana. Gettatasi ai piedi dell'attraente giovane donna che le ha rubato la sua piccola canaglia, le ha baciato le mani, piangendo e ripetendo che era una ragazza bella, buona, nobile, che era tutto ciò che avevano di più caro Dio e gli angeli, mentre lei, Anna Yakovlevna, era una povera donna ebrea grassa, brutta e perduta, indegna di vivere e di sfiorarle l'orlo del vestito. Per non essere da meno, e forse ricordandosi del gesto di Nastasia Filipovna nell'Idiota, Tania ha rialzato la sventurata, l'ha baciata con passione e per finire si è sfilata dal polso con mossa teatrale un bellissimo braccialetto, una gioia di famiglia, insistendo perché Anna lo tenesse in suo ricordo e al culmine dell'esaltazione: «Prega per me, cara, carissima, promettimi che pregherai per me!» Sul treno che li riportava a Mosca, mentre sulla banchina andavano rimpicciolendo le povere figure già curve dei suoi genitori che agitavano i fazzoletti, sicuri di non rivedere mai più il loro unico figlio, a Edoardo è balenata l'idea che se Tania si era concessa il lusso di regalare il suo bel bracciale a quella pazza di Anna, è perché conta su un altro, ancora più bello. Il giorno prima della partenza, Edoardo e Tania passano a salutare Lily Brick. Certo, la vecchia fornisce loro le lettere di presentazione promesse. «Ti affido», scrive all'ex rivale Tatiana, «due ragazzi meravigliosi, abbine cura, sii la loro fata buona». Ma per la prima volta da quando vanno a trovarla, non ha al polso il costoso braccialetto. E durante tutta la visita non ne fa mai cenno. New York, 1975-1980. Un francese che vede New York per la prima volta non rimane stupito. Casomai si stupisce del fatto che la città somigli così tanto a quella che ha visto nei film. Per Edouard e Tania, figli della guerra fredda e di un paese in cui i film americani sono proibiti, è tutto nuovo e meraviglioso. Il vapore che esce dalle bocche di aereazione, le scale di metallo appese come ragnatele alle mura dei palazzi anneriti, le insegne luminose che si accavallano su Broadway, lo skyline visto da un prato di Central Park, il movimento incessante, le sirene della polizia, i taxi gialli e i lustrascarpe neri, la gente che cammina per strada parlando da sola, senza che nessuno intervenga per farla smettere. Passare da Mosca a New York è come passare da un film in bianco e nero a un film a colori. I primi giorni, Edouard e Tania si fanno a piedi tutta Manhattan, tenendosi per mano o per la vita. Si guardano attorno e in alto con avidità, poi si guardano l'un l'altro, scoppiando a ridere e baciandosi più avidamente ancora. Hanno comprato una piantina della città in una libreria come non ne avevano mai viste prima. Invece di essere custoditi sotto chiave, dietro il bancone, come i bottoni in una merceria, i libri sono a portata di mano. Si possono aprire, sfogliare e persino leggere senza essere costretti a comprarli. La piantina poi li sbalordisce per la sua precisione. Se indica che nella seconda strada a destra c'è St. Mark's Place, beh, lì c'è davvero St. Mark's Place, cosa inimmaginabile in Unione Sovietica, dove le piantine, quando se ne trovano, sono immancabilmente sbagliate, o perché risalgono all'ultima guerra, o perché anticipano grandi opere pubbliche e mostrano la città come si spera sia tra 15 anni, o semplicemente perché mirano a disorientare il turista, sempre più o meno sospetto di essere una spia. Edouard e Tania passeggiano, entrano in negozi che vendono vestiti a prezzi spropositati, nei diners, nei fast food, in cinemini dove si proiettano due film di seguito, a volte pornografici. E anche questo li manda in estasi. Nel posto accanto a lui, Tania è tutta bagnata, glielo dice, e lui la masturba. Quando si riaccendono le luci, scoprono un pubblico di uomini soli, che probabilmente i gemiti di Tania hanno eccitato più del film. Edouard si gonfia di orgoglio perché ha una donna tanto bella, perché è invidiato da quei poveracci e perché non è capitato in quel posto, spinto come loro dalla miseria sessuale, ma attratto da esperienze singolari ed esotiche, come si conviene a un autentico libertino. Quando hanno lasciato Mosca, Tania sapeva giusto qualche parola di inglese. Edouard neanche quella. Lui sa leggere solo l'alfabeto cirillico. Ma nei due mesi che hanno trascorso a Vienna, in un centro di transito per emigranti, dove toccava giocare continuamente d'astuzia per non ritrovarsi nella fila in partenza per Israele, ne hanno imparato i rudimenti e ora masticano il broken English, che di fatto basta e avanza per moltissimi degli stranieri che vivono a New York. E poi sono belli, giovani, innamorati. La gente ha voglia di sorridergli e di aiutarli. Quando camminano abbracciati per una strada innevata del Greenwich Village, sanno di assomigliare a Bob Dylan e alla sua ragazza sulla copertina del disco che contiene Blowing in the Wind. A Kharkov, quel disco era il tesoro più prezioso della collezione di Kadik. Vista la cura con cui la conservava, forse Kadik ce l'ha ancora, e qualche volta, di ritorno dalla fabbrica Pistone, lo ascolta di nascosto da Lydia. Penserà al suo audace amico Eddie, che se n'è andato al di là dell'oceano? Ovvio che ci pensa. E ci penserà tutta la vita, con ammirazione e amarezza. Povero Kadik, pensa Edouard. E più pensa a Kadik e a tutti quelli che si è lasciato alle spalle a Saltov, a Kharkov e a Mosca, più ringrazia il cielo di essere se stesso. Lui e Tania hanno due indirizzi. Quello di Tatiana Lieberman, l'amica ed ex rivale di Lily Brick, e quello di Brodsky, che nel piccolo mondo dell'underground moscovita viene dato a modi viatico a tutti gli emigranti diretti a New York, come a un povero contadino della Bretagna o dell'Alvernia che va in cerca di fortuna a Parigi, viene dato l'indirizzo di un cugino che pare ce l'abbia fatta. Perché Brodsky espulso 3 anni prima, è diventato l'idolo dell'alta nomenclatura intellettuale dell'Occidente, da Octavio Paz a Susan Sontag. Si è speso molto per aprire gli occhi dei suoi nuovi amici, per la maggior parte ancora compagni di strada dei partiti comunisti nei rispettivi paesi, sulla realtà del regime sovietico. E la sua posizione non è stata scalfita neanche dall'arrivo in pompa magna di Salgenitsyn, perché Salgenitsyn è una compagnia ingrata, mentre Brodsky, dietro la sua aria da studioso con la testa fra le nuvole, si è rivelato il reuccio delle chiacchierate sulla poesia e dell'amicizia con i grandi della terra. L'intervista a Brodsky è diventata, come quella a Borges, un vero e proprio genere letterario. Il leggendario ristorante Russian Samovar della 52esima strada a Manhattan vanta ancora oggi il suo patrocinio. Gli esuli russi di New York lo chiamano in segno di rispetto Nachalnik, capo, come, detto per inciso, i cechisti chiamavano Stalin. Al telefono Brodsky non ricordava bene che fosse questo Eduard, gliene mandano tanti di russi che non parlano nemmeno inglese, ma gli ha dato appuntamento in una sala da tè dell'East Village, un luogo accogliente, con luci soffuse, che aspira a uno charme mitteleuropeo ed è propizio alle lunghe discussioni sulla letteratura, del tipo «Ti piace più Dostoevsky o Tolstoi? La Akhmatova o la Svietaeva?» che costituiscono il passatempo preferito di Brodsky. È, come gli appartamenti dei vecchi intellettuali moscoviti, proprio il genere di posto che il nostro Limonov odia e la cosa peggiora quando scopre che non servono alcol. Per fortuna Tania è venuta con lui. A Brodsky piacciono le belle donne. Lei fa di tutto per sedurlo, senza sforzarsi, ammetterà poi, e i due cominciano a parlare in modo sempre più rilassato. Eduard, in disparte, osserva il poeta. I suoi capelli rossi arruffati tendono già al grigio e lui fuma e tossisce molto. Si dice che sia piuttosto malmesso, che abbia problemi al cuore. Si stenta a credere che non abbia neanche 40 anni, ne dimostra 15 di più. E benché sia di poco più giovane, Edouard si sente destinato alla parte del ragazzo turbolento di fronte al vecchio saggio. Un vecchio saggio malizioso, del resto. Cordiale, molto più alla mano che a Mosca, anche se dietro la bonarietà si intuisce la condiscendenza di un uomo di successo consapevole che, per quanto un'onda lasci il posto all'altra, i nuovi arrivati dovranno remare a lungo sulla loro scialuppa di salvataggio se vogliono rubargli il posto nella cabina di prima classe. «L'America, sai, è una giungla», dice, rivolgendosi finalmente a Eduard, questo nemico giurato dello stereotipo. «Per sopravvivere qui bisogna avere la pelle dura. Io ce l'ho. Tu non ne sono sicuro». «Vecchio coglione», pensa Eduard, continuando a sorridere amabilmente. Aspetta il seguito, le dritte, i contatti, e questi arrivano senza dover chiedere. Eduard ha bisogno di un lavoro per tirare avanti? Dal momento che sa scrivere, vada a trovare Maisiej Baradatic, il caporedattore del Ruskoye Dyela, un quotidiano in russo per gli esuli. «Non è il tipo di giornale che esce con scoop sul Watergate», ironizza Brodsky, «ma ti permetterà di campare mentre impari l'inglese. E poi, se si presenterà l'occasione, porterà Eduard e Tania dai suoi amici Lieberman, dove potranno conoscere parecchia gente». Come invito è piuttosto vago. Eduard non resiste al piacere di dire che per quanto riguarda i Lieberman, lui e Tania hanno già un contatto e anzi, la settimana successiva parteciperanno a un party a casa loro. «Allora ci vediamo lì», conclude allegramente Brodsky. Il modo migliore per descrivere il party dei Lieberman sarebbe raccontarlo come il ballo al castello della Vaubyessard in Madame Bovary, senza tralasciare un cucchiaino né una fonte di luce. Vorrei saperlo fare, ma non ne sono capace. Diciamo soltanto che la scena ha luogo in un enorme penthouse dell'Upper East Side, che la lista degli invitati calibra in proporzioni ideali ricchezza, potere, bellezza, gloria e talento. Insomma, che siamo fra le pagine mondane di Vogue. Tania e Eduard, che il maître fa subito entrare, pensano lei che lo scopo della sua vita è ormai farsi strada in quel mondo, lui che quello della sua è ridurlo in cenere. Ciò non toglie che prima di ridurlo in cenere sia interessante vederlo da vicino e gratificante pensare di essere arrivati lì partendo da Saltov. A Saltov nessuno ha mai visto né vedrà mai un posto come quello. Nessuno tra gli invitati dei Lieberman ha la più pallida idea di che cosa sia Saltov. Lui solo conosce entrambi i mondi ed è questa la sua forza. Si è appena entusiasmato per questo orgoglioso pensiero e già deve ricredersi, perché scorge al centro di uno dei salotti, al centro dell'attenzione, al centro di tutto, ovunque si trovi quell'uomo è al centro, niente meno che Rudolf Nureyev. Che scalogna! Uno si sente un conquistatore mongolo la cui sola presenza, placida, bruna, crudele, non tarderà a evidenziare lo scialbore di tutte quelle persone squisitamente civili, e si trova davanti Nureyev, che, arrivato da un posto ancora più sperduto di Saltov, dai recessi fangosi di un villaggio della Baschiria, è assurto alle vette più alte e, fulgido e demoniaco, è la seduzione barbara fatta persona. Altri avrebbero cercato di avvicinarsi a Nureyev e di incrociarne lo sguardo. È evidente che Tania vorrebbe provarci, non Eduard, che si allontana con aria torva, passa in un altro salotto e si rifugia in bagno, dove sono appesi alcuni disegni di Dalí con dedica a Tatiana Lieberman. Ed eccola Tatiana, che ora, con un'esuberanza slava appena sopra le righe, fa le feste ai due meravigliosi ragazzi. Non giovane, ma più giovane di Lily Brick, e invecchiata infinitamente meglio, Tatiana è emigrata al momento giusto, divenendo una delle più celebri bellezze della Francia degli anni venti. Eccentrica, con bocchino e pettinatura alla Louise Brooks, come nell'età del jazz e di Scott Fitzgerald, moglie di un aristocratico francese, vedova di guerra, si è risposata con un intraprendente ucraino, Alex Lieberman, che ha seguito a New York, dove lui è diventato direttore artistico delle edizioni Condé Nast, ossia di Vogue e Vanity Fair, per citare solo le navi ammiraglie. Dal loro ponte di comando, da 30 anni Alex e la moglie fanno e disfanno le carriere di fotografi, modelle e persino artisti a priori estranei al mondo della moda. «Sono loro che hanno costruito la carriera di Brodsky», confida Tatiana ai giovani Limonov. «Quando ha abbandonato l'URSS, il poverino ha avuto il buon senso di snobbare Israele, ma ha accettato, seguendo non si sa quale consiglio idiota, l'invito dell'università di Ann Arbor, in cui ha rischiato di restare sepolto tutta la vita tra professori di letteratura russa che fumano la pipa e portano gilet fatti a maglia. Spaventoso destino». Al quale i Lieberman lo hanno strappato riportandolo a New York e presentandolo ai loro amici. «E ora, vedete?» dice Tatiana indicandolo. Arrivato per ultimo come sempre con una vecchia giacca consunta e pantaloni flosci, spettinato, ostenta un'aria trasognata, ma è comunque molto attento a quel che gli dice una ragazza immensa, ieratica, sontuosa, che sussurra Tania in estasi al marito: «È l'indossatrice Verushka». Incrociando lo sguardo della padrona di casa, il poeta le dedica, quasi le dedicasse un'elegia, un sorriso grato e commosso, leggermente servile, pensa il crudele Eduard. Poi, riconoscendo al fianco di Tatiana i due giovani russi, alza il calice verso di loro come a dire: «Buona fortuna, ragazzi. Siete nel posto giusto. Adesso dipende tutto da voi».